Smart City, voci e luoghi dell'innovazione. Buonasera da Maurizio Melis. Sui videogiochi si è detto e si dice un po' di tutto, che peggiorano la socialità, che istigano alla violenza. Per esempio è certo che possano causare dipendenza, ma ci sono anche studi secondo i quali migliorano i riflessi, il coordinamento visivo, la capacità di prendere decisioni rapidamente, sempre naturalmente che non se ne abusi. Una cosa è certa, i videogiochi possono essere incredibilmente divertenti e coinvolgenti. Tuttavia, come mi ha fatto subito notare il nostro ospite di stasera, durante la preparazione dell'intervista, di rado si osserva la questione videogiochi da un altro punto di vista, e cioè il fine per cui vengono prodotti. Tanto buonasera Selene Biffi. Buonasera Maurizio, buonasera a tutti. Allora, Selene Biffi è fondatrice di Spillover, che è una startup ancora una volta diciamo con diversi riconoscimenti alle spalle, come per esempio il premio iContent 2013 per il miglior contenuto digitale. E Spillover sviluppa videogiochi che uniscono divertimento e apprendimento. Diciamo che il vostro slogan è un po' la scienza non è roba da nerd. Ecco, avete appena completato lo sviluppo del vostro primo videogioco scientifico. Intanto, se ce lo descrive in due parole. Sì, si tratta in realtà di The Agency. The Agency mira a dare ai bambini una formazione magari legata alla chimica o alla genetica. Lo fa proponendo di risolvere delle piccole sfide scientifiche una volta che il bambino entra nel gioco e viene reclutato come agente segreto. Ecco, d'accordo, che l'obiettivo è salvare il mondo. Qual è di solito una roba del genere nei videogiochi? Assolutamente sì, qui si salva il mondo grazie alla scienza e risolvendo appunto degli enigmi che presentano in realtà le scoperte scientifiche e le ricerche più attuali. Ci vuole ricordare un po' in quale filone si inserisce il vostro lavoro, perché c'è una tradizione anche culturale di pensiero dietro. Sì, diciamo che noi di Spillover siamo veramente in buona compagnia. Si va in realtà da festival dove i serious game, quindi i videogiochi con un impatto, hanno tutto uno spazio dedicato come Games for Change a New York, a libri che ne trattano assolutamente in maniera molto approfondita come Reality's Broken di Jane McGonigal, passando poi ai videogiochi ad esempio sviluppati dalle Nazioni Unite per insegnare come viene gestita una crisi alimentare, o videogiochi legati alla sintesi di proteine, quindi insomma diciamo che ce n'è un po' per tutti. Insomma è una realtà esistente, però ecco, se ne sa abbastanza poco. Se ne sa ancora molto poco, perché in realtà l'idea del videogioco applicata ad esempio a una pratica come quella dell'istruzione, diciamo che forse non gode ancora esattamente dell'attenzione, ma anche diciamo di una neutralità nella valutazione come in realtà meriterebbe. Cioè? Cioè il fatto che i videogiochi possano anche essere utilizzati per insegnare è ancora un concetto che viene abbastanza demonizzato, forse perché i videogiochi vengono un po' visti come da una parte una perdita di tempo, forse non insegnano magari dei valori. Ma non ci si crede, banalmente proprio non ci si crede, si dice no, quella, il gioco è una cosa, l'apprendimento è una cosa diversa. Ecco, a questo proposito c'è questa eterna diatriba, no, sulla scuola, sul digitale. Come pensa che sia approcciato questo problema? Le sembra approcciato nel modo giusto? Ma l'idea di riuscire a introdurre il digitale nella scuola è, o meglio, sta diventando ultimamente una questione un po' annosa, anche perché di tentativi ce ne sono abbastanza e sono stati fatti parecchie iniziative collegate negli ultimi anni, però quello che mi sembra di notare è che in realtà si tratta molto più spesso di introduzione di hardware che non in realtà di contenuti. Un'eccezione può essere ovviamente ormai famoso ITIS Majorana, che invece prevede non solo l'utilizzo di strumenti ma anche la creazione di contenuti. ITIS Majorana di Bari, che è al centro di un progetto che coinvolge peraltro qualche migliaio di insegnanti, se non sbaglio, in tutta Italia. Ma fino a che punto si possono utilizzare i videogiochi per formare? Perché poi insomma ci sono tutte le varie teorie, Steiner, mica Steiner, su queste cose, sul gioco, sull'apprendimento. Fino a che punto una, diciamo, formazione strutturata può passare per uno strumento come il videogioco? Ma credo che in realtà il videogioco sia uno strumento assolutamente flessibile e non è un caso che ad esempio negli Stati Uniti venga utilizzato anche per formare medici. Penso che in realtà le potenzialità sono molteplici. Quello che va forse rivisitato è un po' l'approccio generale a quello che in realtà sono gli obiettivi con cui un videogioco viene creato. quindi il fatto che possa essere in definitiva legato alla, diciamo, creazione e distribuzione di nuove abilità è una cosa che ancora fa un po' fatica a permeare la mentalità e forse l'analisi comune. Va bene, grazie Selene Biffi. Grazie a voi. Ci fermiamo qui, ci risentiamo domani.